Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 28 giugno, buongiorno e bentornati di nuovo a tutti i nostri ascoltatori, sempre su Liberi Dentro ed Uradio e TV. E buongiorno anche ad Antonella Cortese, sempre qui con me. Buongiorno Caterina e buongiorno a tutti. E sempre la nostra trasmissione che fa da ponte tra il carcere e la città, con una novità da luglio, dall'inizio di luglio, dal primo luglio in particolare. Noi partiremo la nostra attività con il crowdfunding, quindi cercheremo di raccogliere, grazie a voi, al vostro aiuto, dei soldini per coprire anche i mesi estivi e portare la nostra voce all'interno delle carceri dell'Emilia Romagna. Come sapete, il nostro progetto insieme ad ASPE Città di Bologna è iniziato da quest'anno, il 18 di gennaio, e tutti i giorni abbiamo prodotto puntate, grazie al sostegno, questo lo voglio ricordare, di tantissimi tra associazioni di volontariato, enti che si occupano di teatro, di cultura, di diritto, di operatori spirituali, la scuola all'interno del carcere, in particolare del carcere di Bologna, ma poi esteso appunto a tutte le carceri dell'Emilia Romagna. Quindi andate a cercare il nostro progetto dal primo di luglio sulla piattaforma www.ideaginger.it e cercate il nostro progetto che si chiama Eduradio e TV. Grazie a tutti. Intanto iniziamo con le nostre notizie, quindi la nostra rassegna stampa quotidiana a tema sociale dal carcere. Leggo l'articolo da primafirenze.it: in carcere si vive sempre una situazione di lockdown, perché è difficile per i detenuti capire ciò che succede all'esterno. Questo è quello che ci racconta in questo articolo Don Enzo Pacini, che è vice direttore dell'Ufficio Pastorale dei Migranti e oramai da 10 anni cappellano presso la casa circondariale La Dogaia, istituto penitenziario a Prato. Don Enzo ha sempre svolto un'attività, una vera e propria missione pastorale, e non priva di difficoltà, una missione che oggi è ancora aggravata dall'emergenza sanitaria data dalla pandemia. E infatti, Caterina, un po' lo sappiamo anche noi dalle lettere che riceviamo dalla redazione, ma quale sarà stata la percezione di Don Enzo riguardo al binomio carcere-pandemia? Ma infatti lui ha precisato che in carcere se si confrontano i problemi che ci sono all'esterno, si è sempre vissuta una situazione in realtà di lockdown, e per questo le persone che si trovano in cella hanno vissuto, e questo lo sappiamo, come dicevi anche tu, anche in base alle lettere che abbiamo ricevuto, in modo particolare è molto più aggravato la diffusione del virus, non comprendendo però come noi la stessimo vivendo da fuori, ed è stata ancora resa più pericolosa poi dalla diffusione all'interno degli istituti penitenziari. Infatti, Caterina, sappiamo del reparto Covid in vari istituti, come per esempio quello di Bologna, ma in realtà si parla poco delle conseguenze di questo continuo e infinito stato di emergenza. Ma cosa ne pensa Don Enzo? Ma allora, lui ha aggiunto che la pandemia ha prodotto infatti altre conseguenze. Lui fa chiaramente riferimento alla sua attività, che è quella di cappellano del carcere, quindi le funzioni religiose che sono state bloccate, ma anche le attività rieducative. La messa è stata per esempio sospesa per un lungo periodo e poi è ripresa, mentre sono ancora sospese quasi da un anno le catechesi e le altre attività di gruppo, mentre la scuola ha reiniziato le sue attività appunto di docenza con gli studenti detenuti. Un altro aspetto sono le visite in carcere durante la pandemia. Come sapete, sono state ammesse appunto le telefonate, le video anche chiamate, e al tempo stesso però è stata incrementata da 1 a 3 volte alla settimana la possibilità di intrattenersi, quindi al telefono con i propri familiari. Sono state incrementate queste telefonate da 2 al mese che erano prima. Poi l'abitudine, in carcere ci si abitua, lui dice, facilmente a tutto, quindi anche alla privazione peggiore, anche alla privazione proprio data dal non poter sentire spesso come i non propri familiari, ma anche la sospensione di tutte le attività di prima. Poi chiaramente quando reinizieranno sarà un bene per tutti. E poi un'altra cosa, i numeri. Non vi sono stati dei cambiamenti macroscopici, dice Don Enzo, anche se però è cambiata la popolazione carceraria. È sensibilmente diminuita la presenza, lui parla all'interno del carcere di Prato naturalmente, delle persone nordafricane, mentre è aumentata la presenza degli africani, molti provenienti dalla Nigeria, e sono diminuite anche le lunghe condanne. Senti, allora c'è anche qualcosa che non è cambiato? Ma lui dice che a non cambiare è stata l'età delle persone detenute, che si attesta sempre sulla media della 30 d'anni, quindi una popolazione abbastanza giovane. Lui dice che l'esperienza dietro le sbarre però è anche un'esperienza che ti dà una ricerca, una riscoperta anche di certi valori, tanti che sono molti detenuti che lamentano la sospensione di quelle attività di rieducazione, ma anche di catechesi, anche di attività spirituali che si svolgevano prima. Lui dice: cerco sempre, questo dà anche un messaggio alla polizia penitenziaria, di far sentire la mia vicinanza ai detenuti e al personale della polizia penitenziaria, essendo necessario non dimenticarsi mai di quanto sia logorante e impegnativo il lavoro degli agenti. Quindi è una bella testimonianza anche per quello che è il lavoro delle persone che si trovano all'interno. Caterina, che cosa ci fai ascoltare questa settimana? Tutta la settimana siamo con i Rolling Stones, quindi ascoltiamo I Can't Get No Satisfaction. Rieccoci, bentornati sulle note dei Rolling Stones, tutta la settimana su Liberi Dentro e Duradio TV. Siamo con te, Antonella, parliamo in qualche modo di calcio, però da un punto di vista un po' diverso. Sì, a parte che vabbè, ci sono stati gli europei di calcio, insomma, siamo proprio nel momento del football. Comunque vorremmo parlare di Football for Friendship e dell'eWorld Championship. In effetti la pandemia non ha fermato questo programma sociale internazionale che ha continuato a offrire a migliaia di bambini l'opportunità di stringere nuove amicizie, partecipando al grande evento di fine stagione che è appunto quello che dicevo, l'eWorld Championship. Una piattaforma per discutere dei grandi temi del pianeta e della società. In effetti, diciamo, serve soprattutto a questo scopo. E il Football for Friendship è rivolto ai ragazzini tra i 12 e i 16 anni che fanno tutta una serie di attività. Infatti, per questo progetto si cercano in particolare i giovani giocatori, giovani allenatori e giovani reporter. L'evento quest'anno, come anche l'anno scorso, si è svolto online per ovvi motivi. I bambini però hanno avuto comunque la possibilità di conoscere nuovi amici provenienti da tutte le parti del mondo senza dover uscire di casa. E la partecipazione dei bambini è gratuita e i premi in palio sono molto interessanti. Tuttavia non si parla soltanto di premi, ma anche di valori, mi sembra, no? Assolutamente. E le accademie calcistiche nazionali delle squadre vincitrici intanto riceveranno un premio in denaro che è sui 25.000 euro, sulla base dell'impegno dimostrato per la diffusione dei nuovi valori di Football for Friendship. E i valori sono amicizia, uguaglianza, giustizia, salute, pace, lealtà, Vittoria, Tradizioni e Onore. E hanno partecipato giocatori maschi e femmine di 12 anni, allenatori fino ai 16 anni o giovani reporter dai 12 ai 14 anni, proveniente da circa 200 paesi partecipanti. Ovviamente per partecipare è indispensabile avere la passione per il calcio e conoscere bene l'inglese. E tutti i partecipanti devono inoltre possedere un computer e uno smartphone per collegarsi. Tutto molto bello, però non ci hai detto quando è stata la prima edizione di tutto questo. Risaliamo al 2013. Dalla sua prima edizione il programma sociale internazionale per bambini, appunto Football for Friendship, ha organizzato numerosi eventi sportivi ed educativi in tutto il mondo, con l'obiettivo di unire le generazioni più giovani. Poi, quando la pandemia di Covid-19 ha fermato il mondo dello sport, il progetto organizzato da Gazprom, per fortuna, non ha cancellato i suoi eventi e si è spostato sul digitale per offrire a tutti i bambini di diversi background l'opportunità di condividere le loro esperienze online e stringere nuove amicizie. E, tra l'altro, come ti dicevo, i giovanissimi di oltre 200 paesi hanno partecipato a distanza tutto l'anno, mentre sui forum online, e questa secondo me è la cosa più rilevante, venivano affrontati argomenti di grande importanza e attualità, come il benessere del pianeta o l'eguaglianza di genere nello sport. Ti voglio leggere proprio uno stralcio di quello che dice Richard Williams, l'ambasciatore del programma. L'idea è dare ai partecipanti una piattaforma in cui discutere di questi argomenti, perché sono loro che terranno questi dibattiti quando saranno un po' più grandi, e dare loro una base per poter cominciare a farlo è molto importante. Speriamo che ispiri alcuni di loro ad affrontare questi problemi, chiedendosi che cosa fare per migliorare le cose. Il fatto di dar loro la possibilità di discutere di questi argomenti, di partecipare a questi forum e cominciare a pensare a queste cose importanti, speriamo che li avvantaggi, e non solo loro, ma i loro coetanei e chiunque altro nel mondo. Si spera che con il tempo le cose cambino in meglio. Anche perché, Caterina, ce lo dobbiamo dire francamente, noi gli consegniamo un mondo veramente difficile. E comunque, dopo il successo della prima edizione, l'eWorld Championship è tornato per la nona stagione di Football for Friendship, con ben 32 squadre che sono state distribuite in 8 gruppi attraverso un sondaggio trasmesso in diretta. Come ogni partita c'è anche un vincitore, quindi ci sono stati chi ha vinto. Sì, giustamente, dopo un torneo molto combattuto, è stato incoronato campione il team Argali, composto di giocatori provenienti da Aruba, Belize, Guatemala, Costa Rica e Messico, quindi siamo in Sud America. Ma il vero premio per tutti sono state le grandi amicizie nate fra i partecipanti, nonostante le migliaia di chilometri che li separavano. E nelle 9 stagioni al Football for Friendship, con il sostegno tra l'altro di organizzazioni sportive internazionali come la UEFA, FIFA, CIO, hanno partecipato più di 16.000 giovani, provenienti, te l'ho detto, da 200 paesi e regioni diverse. E la crescita del programma non è stata ostacolata dalla pandemia, e quindi si spera di poter continuare a promuovere uno stile di vita sano e la condivisione di valori umani come amicizia, pace e uguaglianza. Grazie Antonella. Io so però che anche tu hai una playlist questa settimana. Sì, io vi propongo questa settimana un artista che abbiamo già conosciuto nelle settimane passate, si chiama Fatoumata Diawara, è un'artista maliana, e ascoltiamo un brano dal suo album Fenfo, che si chiama Nterini. Ascoltatelo. Jarabi ma fe gañalo ñala terini terini abedi sa ne kanu I want to know. Ben ritrovati sempre su Liberi Dentro Eduradio. Oggi abbiamo con noi Micaela Casalboni, con direttrice insieme ad Andrea Paolucci e Nicola Bonazzi del Teatro Argine, che dal 18 di gennaio di quest'anno, come la maggior parte dei nostri ascoltatori più fedeli sanno, ma anche per le puntate di Natale che abbiamo fatto per l'accordate di solidarietà al carcere, collaborate con noi per produrre settimanalmente le rubriche di teatro Oggi Parliamo Di. Buongiorno e bentornata. Buongiorno, bentrovati, bentrovate. Allora, siamo qui con te per parlare del progetto del Teatro Argine, per l'appunto rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 20 anni del territorio bolognese area metropolitano. Il titolo è Politico Poetico. Spiegaci come mai l'unione, anche per questo titolo, di queste parole che appaiono così apparentemente anche lontane. Allora, si intitola Politico Poetico, detto in breve difficilissimo, ma perché sostanzialmente si occupa, chiede ai ragazzi e alle ragazze dell'area metropolitana bolognese di occuparsi della polis, ovvero la città, quindi non la politica dei partiti, ma la loro città, il luogo in cui vivono, e capire come fare a migliorarlo a partire da quel grande quaderno delle utopie che è l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, che non è solo l'ambiente, la cura dell'ambiente, ma riguarda la società, le disuguaglianze, i diritti, e come avere dei tempi migliori per la giustizia, cioè tutti quei temi molto caldi del nostro mondo. E loro se ne devono occupare, pensare globale, agire locale, cioè cosa faccio intanto io qui, la polis, politico. Poetico perché? Perché il teatro in questo caso si mette di lato per un po', gli ha fatto un po' da facilitatore, ma poi gli ha dato, ha provato a dargli, e ancora adesso lo sta facendo, degli strumenti per tradurre in efficacia anche oratoria i loro progetti. Ognuno di loro ha scritto un progetto per Bologna, è diventato un monologo, è diventato un video che sta su un sito meraviglioso, pieno di progetti fantasmagorici che hanno inventato questi ragazzi, e l'hanno fatto usando strumenti del teatro, gli strumenti di relazione tra loro, di espressione, di trascinazione, di partecipazione nei confronti degli altri. Quindi un progetto a tutto tondo sulla nostra città, ma anche molto molto complesso. E mi viene da chiederti come mai rivolgersi proprio a questa fascia di età? Perché noi, c'è da dire, è dal 94, da quando il Teatro dell'Argine è nato, che da sempre ci adoriamo lavorare con gli adolescenti, bambini, ma soprattutto gli adolescenti, perché in quella fascia d'età loro non sono ancora niente, possono essere ancora tutto. Forse li invidiamo per questo, non lo so, però c'è una speciale energia in quella fascia d'età. Io quando sento le persone dire che i ragazzi non hanno valori mi arrabbio moltissimo, perché può essere che non abbiano i nostri valori, può essere che dobbiamo cercare altre strade per parlarci, ma ci dobbiamo parlare. La seconda fase di Politico Poetico, il secondo pezzo, per esempio, riguarda uno spettacolo che debutta tra due giorni, che si intitola Il Labirinto. Questo spettacolo, per esempio, si occupa di tutta quella fascia di adolescenza in difficoltà, ragazzi che sono in condizione di disagio o di pericolo, intercettati così, diciamo, nei sotterranei della città, che si vanno perdendo. L'adolescenza è molto complessa, ma se abbiamo il coraggio e la forza di dargli un po' voce, di lasciargli un po' di spazio, sono loro che lo dovranno fare questo mondo, quindi a chi mai dovremmo rivolgerci se non a loro, mi viene da dire. E in questo senso la parola che ho detto prima, cioè attivare dal basso processi partecipativi, diventa fondamentale. E tu mi hai dato questo incarico bellissimo da DJ, certo. Lo so io da quando ero piccola, e quindi tocca a me oggi lanciare il brano musicale che segue, e che è Libertà e partecipazione di Giorgio Gaber. Grazie, ascoltiamola. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. E rieccoci, bentornati sulle note di Giorgio Gaber, La Libertà. E Micaela, c'è una frase che mi colpisce molto del vostro progetto politico-poetico. Voi proponete il teatro perché può essere il luogo in cui mettere in circolo le idee e nuove visioni per il futuro. Spiegami perché. Che ambiziosi che siamo. Ma la verità è che il teatro è uno spazio reale e metaforico, cioè un luogo anche fisico, reale, però anche metaforico, dove poter in grande libertà, anche con delle regole, ma regole che abbiamo deciso insieme di darci, che non sono quelle imposte dal mondo là fuori, fuori dalle etichette che ci impongono nel mondo là fuori, uno spazio è un grande facilitatore di dialogo. Io mi piace sempre usare questa espressione, è una palestra di convivenza civile, cioè dentro il teatro, gli esercizi che si fanno, le pratiche che si attivano, il teatro è un'arte sommamente collettiva, si lavora insieme, l'apporto del singolo è fondamentale per il lavoro di gruppo, però devo rispettare l'altro, lo spazio dell'altro, il turno di parola dell'altro, però possiamo inventarci mondi nuovi che non esistono già, è un luogo di immaginazione, di creazione, di rispetto, di dialogo, di relazione. E quindi, come dire, no? Questi sono gli ingredienti fondamentali anche per immaginare il futuro, cioè anche per cittadini e cittadine. Quindi non è un luogo solo degli artisti, è un luogo di chiunque, in qualunque punto della città stia, che stia al centro, alla periferia, che stia in posizione di grande forza o di grande fragilità, il teatro diventa la piazza nella quale tutti ci incontriamo e possiamo e dobbiamo, mi viene da dire, anche parlare e dare il nostro contributo. Questo almeno ci sembra che abbia senso. Poi va bene anche il teatro, quello, come dire, del palcoscenico, dello spettacolo, della magia, della cosa che si va a guardare, non sto dicendo che anche l'arte per l'arte non sia meravigliosa e importantissima, ma quando poi ha questa ricaduta anche di impatto sociale, civile, mi sembra che abbiamo vinto a 360 gradi. Grazie Micaela, allora riprendendo proprio anche le tue parole del teatro come agorà della nostra città, io concludo sempre con Gaber, lo rilancio anch'io con Com'è bella la città. Grazie e alla prossima. Milano, grazie, grazie a tutti e a tutti. Concentrica. I nostri interventi tendono a razionalizzare dove è possibile tutto ciò che riguarda la viabilità, i servizi, le strutture primarie, le infrastrutture. Si da dare al cittadino uno spazio vitale, abitabile, confortevole e soprattutto congeniale alla sua natura intima e al tempo stesso operosa. In questo contesto, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella!